Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buonasera, per quanto avrete arguito che si è ormai alla frutta, almeno una trasmissione ancora prima di lasciare le penne in questa calura, in questa torrida prossima estate, sicuramente la faremo. Ringraziando perciò Walter Porcelli, che oggi è diventato uno ebino, nel senso che è anche rappresentato qui dal Fido Gabriele, e ringraziando l'amico Oliva lontano da noi, augurandogli tutto il bene possibile, ringraziando tutti voi per la cortese attenzione, rinnoviamo l'invito a martedì prossimo alla stessa ora. Grazie e buonasera.